Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Un buon progetto non nasce dall'ambizione di lasciare il segno del designer, ma dalla volontà di instaurare uno scambio anche piccolo con l'ignoto personaggio che userà l'oggetto da noi progettato. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, così scriveva uno dei maestri del design italiano, Achille Castiglioni, autore di veri e propri oggetti cult della storia del design. La puntata di oggi di Essere Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, è tutta dedicata al design, prima nello spazio approfondimento, poi nel focus sui trend di questa settimana. Di fast food e di nuove sperimentazioni parleremo invece nella rubrica sulla grande distribuzione, tutto questo dopo le notizie e curiosità della settimana. Storico sorpasso dello spumante Made in Italy sullo champagne francese negli Stati Uniti, dove le bottiglie di bollicine nazionali esportate sono risultate addirittura il 30% in più di quelle dei cugini d'Oltralpe. Lo sostiene la Coldiretti, a conferma del successo dello spumante in molti paesi. Aprirà le porte nel 2012 il Galactic Suite Hotel, primo albergo nello spazio. Orbiterà a 450 km dalla Terra. Una permanenza di 4 giorni costerà 3 milioni di euro, cifra che già 38 persone si sono prenotate per sborsare. Sedie di design per tutte le tasche. L'idea è di Muji, la catena di concept store made in Japan, che ha reinterpretato i due modelli di punta dello storico mobilificio Tonet. Londra, ma anche l'Islanda e Las Vegas sono diventate destinazioni tutto sommato economiche grazie alla crisi globale. È quanto afferma la casa editrice Lonely Planet nella guida Best in Travel 2010, dedicata alle 10 destinazioni più convenienti per l'anno prossimo, tra le quali figurano anche Sudafrica, India, Thailandia, Bulgaria, Malesia, Kenya e Messico. Il Giappone tradisce il tè e sceglie il caffè, sposandone l'Italian style. Le più popolari qualità di tè verde cedono il passo a espresso, cappuccino e caffè istantaneo. Anche se la maggior parte delle famiglie continua a bere tè durante i pasti, spiegano gli esperti, uscire a prendere un caffè con gli amici oppure offrirne una tazza agli ospiti a casa è diventato simbolo d'eleganza e modernità. La borsa della spesa. Oggetti di design e consumo, che cosa è cambiato negli anni? Dai compagni di vita della nostra quotidianità, che vanno dalle caffettiere all'automobile, si possono leggere in controluce costume e società. Maria Chiara Grandis. Come cambia il consumo degli oggetti d'uso quotidiano è una delle chiavi di lettura della mostra Disegno e Design, brevetti e creatività italiani, fino al 31 gennaio all'Ara Pacis di Roma. Un'esposizione di 100.000 brevetti, dal progetto all'oggetto. Dalla bottiglia cosiddetta educata con salvagoccia del 1901 a un lampadario di Luceplan di quest'anno, si intuisce come gli italiani e il loro stile di vita sia cambiato negli anni. Si parte dalla casa, con mobili, lampade e complementi d'arredo, questo è il settore forse più produttivo dell'industria del design nostrano. La curatrice della mostra, Alessandra Maria Sette. Ecco, il settore delle caffettiere, con mia grande sorpresa, ho visto che è vivacissimo. Non solo la famosa moca Bialetti che tutti abbiamo in casa, ma intanto sul tema della caffettiera domestica ci sono decine di brevetti. E poi a quella si accompagna tutta una serie di cose, quindi tazzini, allora piatti, posate, eccetera. Troviamo già da subito il marchio Lagostina, per esempio, che è molto antico e che è ancora vivacissimo. Fra i brevetti non possono mancare quelli degli stilisti d'alta moda. Questo è forse un fatto un po' sorprendente, perché forse non si pensa che un indumento che noi acquistiamo sia brevettato, per cui abbiamo anche qui dagli inizi del secolo una serie di modelli, diciamo, anonimi, che hanno il nome dell'azienda che li produce ma non hanno il nome dello stilista, del designer. E poi cominciamo con una serie molto ampia di brevetti firmati Guccio Gucci o Salvatore Ferragamo, forse proprio quest'ultimo a lasciare un segno molto forte nell'archivio, con dei modelli che sono bellissimi dal punto di vista del disegno, che sono nuovissimi dal punto di vista dello stile, dell'idea. Sono modelli di calzature che, se noi trovassimo oggi in un negozio, diremmo come sono attuali, come sono contemporanei. C'è Borsalino, per esempio, che brevetta addirittura la cappelliera, cioè la scatola che deve contenere il cappello che poi deve viaggiare in tutto il mondo. Un settore a sé è quello del trasporto, soprattutto privato, che segna le tappe dell'evoluzione economica del nostro paese. Uno dei grossi problemi che l'Italia deve affrontare nell'ambito naturalmente della ricostruzione è proprio quello della mobilità. Strade distrutte, ponti distrutti, collegamenti inesistenti, servizi pubblici inesistenti anch'essi. Dunque, da prima ancora della guerra troviamo un foltissimo numero di brevetti Fiat. Da subito dopo la guerra cominciamo a trovare i brevetti della Piaggio, che appunto inventa la Vespa e che comincia poi l'era delle due ruote. Poi troviamo Innocenti, Pininfarina, Bertone, l'Alfa Romeo. La mostra, sostenuta dal Ministero dello Sviluppo Economico, è curata dalla Fondazione Valore Italia, che, come spiega il presidente Massimo Arlecchino, lavora per promuovere il marchio italiano e proteggerlo dalle imitazioni. Fare cultura, cioè accrescere nel consumatore, quindi nel visitatore, la consapevolezza che dietro un oggetto ben fatto c'è la testa, c'è il cervello, c'è la creatività, c'è progettualità. Questo è il senso di questa mostra. Una piccola sezione dedicata a Giulio Natta, inventore della plastica nel 54 e premio Nobel nel 63, chiude la mostra, che prevede anche una serie di incontri con i più grandi designer del mondo e che si trasformerà presto in un'esposizione permanente del design italiano nel Palazzo della Civiltà a Roma. Cambiamo argomento con il direttore di Markup Luigi Rubinelli, parliamo di una vera e propria rivoluzione nel fast food. La sta sperimentando il gigante del settore McDonald's. Mentre in tutta Europa le imprese del commercio per abbassare i costi si interrogano in modo sempre più ultimativo se passare alla vendita self-service e dimenticare quel poco di assistenza che ancora c'è, ecco che il leader della ristorazione rapida, McDonald's, sceglie di testare alcuni ristoranti con servizio al tavolo. McDonald's ha iniziato la sua fortuna proprio con la vendita a libero servizio. Ordina il tuo menù al bancone, paga, aspetta al bancone che ti mettano tutto l'ordinato su un vassoio e cercati un posto a un tavolo qualsiasi. Questa è in sintesi la formula della ristorazione commerciale negli ultimi decenni, veloce, senza formalismi, facile e chiara. Evidentemente la crisi favorisce la rottura degli schemi e l'innovazione. Così nei mesi scorsi McDonald's ha testato in Francia, in ben 12 ristoranti, la nuova formula che non mancherà di far discutere gli addetti ai lavori, ma anche i clienti del Mac. Funzionano così: il cliente fa il suo ordine a un chiosco elettronico, sceglie e compone il menù che preferisce, paga con la carta di credito allo stesso chiosco. Poi sceglie il tavolo, ma il cambio è consistente, sarà un addetto infatti a servirlo a tavola. In questo modo la cucina lavora in modo razionale, il cliente dopo aver pagato si può accomodare e sedersi e seduto aspetta il suo pasto. Tranquilli, il Mac però non cambia. Bentornati in studio con Essere Avere, ci ha raggiunto come sempre la nostra esperta Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF. Bentornata Patrizia. Grazie, buongiorno. Design in mostra è il tema del focus sui trend di oggi, ad indicare uno spostamento del design verso l'arte. Se è vero infatti, come abbiamo avuto modo di dire in una delle ultime puntate, che l'arte è diventata molto più accessibile, low cost e glamour, trasformandosi in certi casi in oggetto di consumo, da parte sua il design produce sempre di più oggetti artistici, oggetti che vengono sì acquistati e utilizzati, quindi oggetti funzionali, ma anche esposti e contemplati, quindi artistici. Patrizia. Si è da sempre molto parlato e indagato del connubio, a volte anche del contrasto tra arte e design, tra creatività e mercato. Oggi parliamo di questo, ma dal punto di vista, come dicevi, da un lato della contaminazione, ma soprattutto dello spostamento, dell'innalzamento del design verso l'arte, del fatto cioè che il design diventa anche arte. Quindi, pur continuando a identificarlo con la progettazione di oggetti prodotti in serie, oggetti di consumo prodotti in in serie ci troviamo anche, parliamo naturalmente di mercati di nicchia, di fronte ad oggetti che sono oggetti assoluti, oggetti evento, opere d'arte. Quindi da un lato abbiamo l'arte, come anticipavi, che ingloba gli oggetti quotidiani, che si sta girando per strada, negli spazi urbani, si insinua nel mondo delle merci, soprattutto anche del retail. Pensiamo a quanti negozi, concept store, usano format museali con le merci esposte sui piedistalli, proprio a mo' di spazio espositivo museale tradizionale. Quindi l'arte si sta democratizzando e questo è un dato. Il design, che già pervade gli oggetti quotidiani, dalle carte di credito alle bottiglie d'acqua, insomma è un'esperienza, diciamo, ormai di massa, è già molto democratico, è già ovunque, sta facendo questo spostamento verso l'arte. Siamo già circondati da oggetti commodity autoriali firmati da designer, e questo tra l'altro rientra nella tendenza ormai acclarata di un'estetizzazione molto marcata e diffusa dei prodotti di uso comune. E quindi da questa condizione, diciamo, questa estetizzazione così spinta, il passo verso l'arte è veramente breve. È di questi giorni, per esempio, la chiusura della terza edizione della fiera The Pavilion of Art Design London, che offre pezzi storici di grandissimi artisti accanto a oggetti di design contemporaneo che vengono venduti con prezzi anche oltre i 200.000 euro. È stato istituito un prize e una giuria di designer, galleristi, collezionisti privati ha selezionato alcuni pezzi di design da donare al Victoria and Albert Museum. Prima di proseguire facciamo un passo indietro, andiamo alle origini del design, sentiamo la scheda. L'origine dell'industrial design viene comunemente fatta risalire alla fine dell'Ottocento, con la nascita in Inghilterra del movimento Arts and Crafts, un gruppo di architetti, scrittori, disegnatori e artigiani che si opposero alla bruttezza imperante dei prodotti industriali. Sebbene severi fautori del lavoro artigianale, con il tempo accettarono di collaborare con l'industria, riconoscendo il valore della progettazione come fondamentale premessa alla produzione in serie. Oggetto simbolo di questa rivoluzione, la sedia Tonet del 1859, ancora oggi venduta in tutto il mondo. Patrizia, oggi tra le più celebrate ci sono proprio le produzioni limitate. È una sorta di ritorno alle origini in qualche modo? Sì, è bene ricordare che la piccola serie, le edizioni limitate, i pezzi unici di altissimo artigianato sono sostanzialmente nel DNA del design e l'hanno reso da sempre artistico. Anche oggi intere produzioni come quelle di Established & Sons Limited Edition sono pensate per collezionisti, per istituzioni culturali, musei, quindi nella loro mission, in maniera molto chiara e dichiarata, i pezzi di queste edizioni limitate nascono già come oggetti, progetti straordinari, non riproducibili, insomma destinati al mercato arte. Parlando di origini di design e arte, non si può non citare appunto in una puntata sul design Gaetano Pesce, pioniere nell'operare trasversalmente nei campi dell'architettura, delle arti visive e del design. Lo voglio citare perché al Salone del Mobile di quest'anno ha presentato Pesce K, un prototipo di cappa aspirante da cucina realizzato da Elica, un'azienda leader mondiale produttrice di cappe, coloratissima, ricoperta di verdura, frutta, legumi. Diventa un condensato simbolico e narrativo del cibo, della terra, della natura, della vita. Insomma, una vera opera d'arte travestita da cappa da cucina, oppure un oggetto di design industriale realizzato con il linguaggio, l'estetica e tutta la potenza comunicativa dell'arte contemporanea. Facendo un salto più nel recente panorama del design contemporaneo, un brand che mi ha molto colpito è l'olandese Mooi. Mooi, scritto con tre O, significa bello. Invito gli ascoltatori che vorranno a guardare il sito Mooi.com. I designer di Mooi realizzano dei pezzi altamente iconici, degli oggetti anche un po' metafisici. Facciamo subito un esempio: la horse lamp, la lampada a cavallo, ha le misure 210x230, una sorta di cavallo in scala quasi 1:1, e ha in testa un paralume. È chiaro che la funzionalità non viene mai eliminata, quindi horse lamp fa anche luce, certamente, però questo diventa irrilevante, comunque non prevalente, per dire che se e quando il design diventa arte, gli oggetti non sono più solo se stessi, solo la loro funzione, ma diventano altro, diventano come le opere d'arte, degli oggetti da guardare più che anche da usare, degli oggetti evento, delle vere sculture, delle opere anche da capire, da interpretare al pari di quelle dell'arte contemporanea. Design, la fabbrica del desiderio è il titolo di un libro molto interessante uscito di recente. L'autore da sempre indaga il mondo delle merci e il loro legame con l'immaginario contemporaneo. È Fulvio Carmagnola, filosofo, docente di estetica all'Università degli Studi di Milano Bicocca, il nostro ospite di oggi. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Perché la fabbrica del desiderio? Beh, fabbrica è un termine che richiama la tradizione industriale, è un termine anche un po' ironico, se vogliamo, perché secondo me il design è precisamente un luogo di produzione, ma non tanto un luogo di produzione di oggetti fisici, ovviamente sì, ma è un luogo che produce desiderio, nel senso che lo sollecita, lo mostra, lo mette in mostra attraverso gli artefatti del design, e quindi si potrebbe quasi dire che al di là delle singole imprese, delle singole aziende o dei singoli produttori, si tratti, come dire, di una fabbrica sociale, di una fabbrica immateriale, ecco, distribuita sul territorio e soprattutto distribuita anche nei media, quindi una specie di fabbrica collettiva, se vogliamo. Possiamo fare l'esempio di un oggetto o di un marchio di design che sia emblematico nel senso appunto della fabbrica del desiderio? Ma ce ne sono moltissimi. Se dovessi fare un esempio recente che mi ha colpito molto, di cui peraltro si parla in un capitolo del libro, direi la Fiat 500, la Fiat 500 nuova. Quello è effettivamente un oggetto di desiderio, non ce ne sono molti altri. È un discorso questo che si può estendere anche ad altre categorie di consumo, penso innanzitutto alla moda? Senza dubbio, io direi anzi che la moda in un certo senso è, come dire, il sistema principale. Se dovessi semplificare direi che ci sono tre grandi sistemi che funzionano in modo molto simile. Uno è la moda, che da un certo punto di vista è il sistema esemplare. Uno è il design e il terzo è l'arte. Ci sono all'interno del territorio del design alcuni elementi, alcuni pezzi, diciamo così, alcuni esemplari che tendono a spostarsi verso il territorio dell'arte, ma proprio anche fisicamente, per esempio la logica della piccolissima serie o del pezzo unico, che hanno anche delle quotazioni più simili al pezzo d'arte rispetto che al pezzo del design. Se volessimo riassumere in questo movimento del design che diventa arte e dell'arte che diventa oggetto di consumo, lei ha appunto parlato di ibridazione, qual è la differenza che persiste come tratto distintivo tra arte e design? Ma dovrei dire che la differenza da un lato è puramente immaginaria, nel senso più banale, se vogliamo, della parola immaginario, cioè che non esiste un confine oggettivo, perché qualunque oggetto, tendenzialmente qualunque oggetto può essere un oggetto d'arte. Dall'altro lato è una differenza di ordine, come dire, istituzionale. Una terza differenza può essere, che però tende a sfumare, secondo me, il carattere di utilità. Ci si potrebbe chiedere però, per esempio, quanto sia utile lo spremi agrumi di Philip Stark. Quello che l'hanno provato lo sanno benissimo. E quindi è sempre più difficile stabilire le differenze guardando l'oggetto, ecco, diciamolo così. Mentre le differenze ci sono, ma ci sono sul piano istituzionale, sul piano dei sistemi, diciamo così, dei sistemi di produzione. Grazie a Fulvio Carmagnola per essere stato con noi. Grazie. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Madrid su design, arte e dintorni? Questo è il momento delle nostre Urban Watcher di Memi. Elena Marinoni, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, sì, siamo a Chueca, quartiere outsider di Madrid, dove in una vietta insospettabile, Calle San Lorenzo, c'è uno dei luoghi più esclusivi della città. Si tratta di At Macheren, recente evoluzione dell'atelier di Mabel Sanz, designer spagnola nonché ingegnosa creatrice di cappelli unici, cappelli scultura, veri e propri oggetti d'arte che sembrano quasi spiccare il volo, tale il dinamismo che riesce a imprimere loro. Da 15 anni a questa parte nell'atelier si veniva accolti solo su appuntamento. Oggi l'alone di mistero, di inaccessibilità che circondava Mabel sembra essersi un po' diradato. L'atelier si è evoluto in un concept store dove, oltre ad ammirare i cappelli stati su scenografici trespoli, circondati da quadri e mostre d'arte, è possibile all'occorrenza bere, mangiare qualcosa, acquistare qualsiasi oggetto esposto, mobili e complementi d'arredo compreso, tutti usciti dalle operose mani di Mabel, in una terra di mezzo tra arte e design. Grazie Elena. Patrizia, tutto questo è un processo che cambia in qualche modo i tratti distintivi del design? Ma sì, diciamo che questa terra di mezzo molto affascinante tra arte e design ci dice che il design sta cercando e sta trovando una sorta di consacrazione nel mondo dell'arte. Questo è un fenomeno significativo anche sul piano della sua, virgolette, funzione sociale o del suo significato, cioè se ha uno status al pari dell'arte contemporanea, anche il design diventa in grado di stimolare anche grandi domande, proprio come l'arte sulle questioni sociali, etiche, estetiche, ambientali, eccetera, del nostro presente. Resta solo il tempo per darvi appuntamento a domenica prossima. Ricordate, come sempre, dopo il GR delle 13, in replica il sabato alle 15, un saluto da Maria Luisa Pezzali.